Il punto di Stefano Folli. E così Napolitano ha voluto rassicurare Berlusconi alla vigilia di decisioni che potrebbero essere molto impegnative. Il Quirinale non pensa a nuove maggioranze diverse dalle attuali, non pensa cioè a racimolare qualche voto al Senato fra eventuali fuoriusciti del PDL o dei 5 Stelle. Conoscendo il Capo dello Stato non c'è da stupirsi, non è uomo da accreditare avventure politiche e quindi maggioranze raccogliticce che viverebbero gatti. Per cui Napolitano chiede a Berlusconi un atto di grande lealtà. Glielo chiede nel momento in cui il Presidente della Repubblica ha creduto alle larghe intese e forse ci crede ancora. L'atto di lealtà sarebbe tanto più significativo in quanto arriverebbe nel momento in cui, magari tra qualche settimana o mese, il leader della destra dovrà abbandonare la scena parlamentare. Ma è proprio nei momenti difficili, anzi estremi, che si misura il senso delle istituzioni. Tenendo in vita il governo Letta, con senso di responsabilità, anteponendo quindi gli interessi nazionali ai suoi casi personali, Berlusconi ha la possibilità di compiere un gesto nobile, diciamo, che sarà ricordato a lungo, altrimenti concluderà la sua parabola parlamentare nel modo più banale e anche meno degno per un ex presidente del Consiglio.